ci sono molti modi di pregare. È un po' come il cibo. Ci sono molti modi di alimentarsi e ogni tipo di cibo ha le sue caratteristiche. Così le preghiere. Ogni preghiera ha la sua ricchezza. La messa, che è il massimo del cibo. Il rosario è un altro modo di pregare. La Via Crucis. Le preghiere che ci hanno insegnato da bambini mattina alla sera. Ma esiste anche il modo di pregare fatto di stupore, di contemplazione, di meditazione. La lettura del Siracide ci accompagnerà in queste prossime settimane, al capitolo 42, versetto 15, ci dice come dovremmo metterci di fronte alla parola di Dio, alla creazione. Se avete il messalino vi invito a seguirlo, perché questo aiuta, oltre che al sentire, anche il leggere. Ricorderò le opere del Signore, descriverò quello che ho visto, dice il credente. Per le parole del Signore stanno in piedi tutte le sue opere. Il sole che risplende vede tutto. E della gloria del Signore sono piene le sue opere. Bisognerebbe proprio fermarci. Io cerco di indicarvi qualcosa, ma dovete farlo voi. Provate a pensare se si riuscisse a leggere questo brano stando nel mezzo della natura, stando in una giornata di primavera e guardandoti in giro, no? Della gloria del Signore sono piene le sue opere. Neppure ai santi del Signore è dato di narrare completamente le sue meraviglie. Sono così eccedenti la capacità umana che neanche i santi riescono a penetrarla profondamente. Il Signore scruta l'abisso e il cuore, cioè scruta l'immensità dell'abisso del mare, l'immensità dell'abisso dei cieli e la piccolezza del cuore. E penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza. Amici, com'è bello essere figli, amici di un Dio così grande. Tante volte la gente corre dietro a dei personaggi, a dei divi, delle dive dello spettacolo, corre dietro dei politici, dei leader, corre dietro a degli scienziati. Sì, avranno le loro capacità, ma l'Altissimo conosce tutta la scienza. Osserva i segni dei tempi, annuncia le cose passate e quelle future e svela quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge. Mi fanno ridere quelli che dicono: ah, ma il Signore come farà dall'alto dei cieli a vedere il cuore dei 7 miliardi di persone che ci sono? Dico, ma scusa, come ha fatto a creare ciascuno dei 7 milioni di persone che ci sono? Come farà a giudicare alla fine della vita ciascuno dei 7 miliardi di persone che ci sono? Nessun pensiero gli sfugge, neanche una parola gli è nascosta. Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza, nulla è da aggiungere e nulla è da togliere. Non ha bisogno di nessun consigliere. Capite, amici, io ve l'ho letta così e vi chiedo scusa se ve l'ho un po' sciupata, ma dovreste proprio voi prendere in mano la parola di Dio. Ci sono tanti libri di devozione pieni di tante novene, pieni di tante devozioni ai santi. Ho provato a leggerle anch'io, carine, ma come la parola di Dio, non c'è niente che mi parla. E poi c'è il Salmo responsoriale che, come al solito, riprende il tema e lo approfondisce. Guardate anche solo il ritornello. Della gloria di Dio risplende l'universo. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca la loro schiera. Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Cosa vi devo dire? A me piace leggere questa parola, non trovo l'equivalente in nessun poeta, men che meno in nessun giornalista. Però bisogna avere la pazienza di fermarci, di leggerla, di meditarla, di ritornarci sopra, di gustarla, di ruminarla. Su di noi sia il tuo amore, o Signore, da te noi lo speriamo.